Basette. 21 aprile 1923. Oggi vidi per la seconda volta in chiesa due donne inginocchiate durante il Santo Rosario del sabato. Esse sparirono e poi ritornarono. Quando dopo, io entrai insieme al signor parroco sperando che lei vedesse anche lui, esse erano effettivamente lì, ma quando volli parlare con loro sparirono. Nicolò incontrato quattro volte, egli passò come di corsa accanto a me. Per alcuni giorni ebbi la febbre la sera e non potei dormire, ma non vidi e non sentii niente. Ora che sto di nuovo bene, esse tornano di nuovo. 26 aprile. All'una di notte venne la Hauserin, governante, morta un anno fa, di cui non so il nome. Aveva una espressione molto triste, non rimase a lungo, continuava ad andare in su e in giù. 27 aprile. Eccola di nuovo, rimase più a lungo. Mi guardò fisso ma non disse niente, non rispose. Ho visto due volte Nicolò che cercava come sempre. 29 aprile. La Hauserin accanto a me dalle 3 alle 4:30 molto triste. Lei vorrebbe parlare, ma non può. Non la vedo molto volentieri perché essa mi guarda sempre con gli occhi sgranati. Ho visto le 11 colonne nebulose. In maggio. Essa era già in camera mia quando andai a dormire. Io le porsi un fazzoletto, perché li premesse sulla mano. Lei venne molto vicina, ma non lo prese. 4 maggio. Essa venne due volte durante la notte, si è curvata tutto su di me, cosa che mi disgusta assai. Ho rivisto anche Nicolò. Chiesi alla donna come si chiamasse. Lo feci più volte senza ottener risposta. Poi risuonò come un suono spaventoso. Bah! E era molto triste. È molto contenta dell'acqua santa, perché fino che non gliela do è molto agitata. Nota. Il parroco Sebastiano Wieser conobbe molto bene la morta, Barbara Zeta, quando era viva. Secondo la sua descrizione essa era una nubile, apparentemente molto pia, ma molto isterica. Era una persona sensuale, che scriveva lunghe lettere ai sacerdoti e ingannò uno di loro con molta raffinatezza. Alla fine ne nacque un bambino e poi in meno di un anno morì. Hauserin è il vecchio nome per Ausschelterin governante o massaia. 5 maggio. Era di nuovo qui. Ora so che si chiamava Babette. Mi stanca assai, perché resta sempre così a lungo. Vidi anche che ha un vestito molto sciupato. Tiene anche qualche cosa in bocca. Non si vede bene. 9 maggio. Venne di nuovo due volte di notte. Vidi pure gli 11. 12 maggio. Incontro Nicolò sul corridoio. Sembra molto contento. 13 maggio. La H'Hauserin, di nuovo lì, per niente comodo, si piegò su di me. La sua bocca è ripugnante come una ulcerazione, il labbro inferiore tutto nero. Ha pure brutti occhi. Sarei felice di riuscire a far breccia su di lei, ma non se ne ricava nulla. Vorrebbe parlare ma non può. 14 maggio. Di nuovo, ha aperto la porta che io chiusi solo per provare. 15 maggio. Ho visto di nuovo Nicolò. 18 maggio. La Hauserin rimase vicina a me dall'una alle 3:30. Mi svegliò con un lamento. Poiché avevo ricevuto questo consiglio, le tenni davanti la reliquia della Santa Croce e domandai, «Sei dannata?» Lei scosse il capo in senso negativo. Allora io dico, Io ti scongiuro di dirmi che cosa vuoi. Non voglio più vederti. Poi, con suoni difficili da comprendere, sempre ingannato. Parroco. La pregai di ripetere, perché non riuscivo a capire il senso, ma se ne andò aprendo di nuovo la porta. 22 maggio. Venne tutta sconvolta, come uno che scappa, aveva un aspetto pauroso. Io dissi, ti ordino di dirmi perché continui a venire da me? Allora mi venne vicina e mi indicò la sua bocca. Io mi spaventai moltissimo. Poi mi sparì. 23 maggio. Mi ero appena addormentata che lei era di nuovo qui. Io dissi, se adesso non mi dici che cosa vuoi, io non prego più per te. Per lungo tempo non disse una parola, poi un mormorio incomprensibile. Io, dimmi una buona volta che genere di bugie hai detto. Mi viene molto vicina e dice chiaramente, devo patire, ho mentito molto, ho diffamato, dillo al parroco. Io, perché non vai tu da lui? Nessuna risposta. 24 maggio. Venne con un'altra figura, che non potei riconoscere. Io avevo tanta paura, tenni davanti a loro la reliquia della croce e dissi, vi prego, non venite più. Riceverete una santa messa. Vidi di nuovo le due donne in chiesa.